Dal prossimo 14 luglio finirà il supporto per Windows Server 2003. Sei pronto ad aggiornare la tua infrastruttura IT? Passa ora al cloud con Aruba. Vai su cloud.it e prova gratis i nostri servizi con la tecnologia Microsoft Hyper-V. Con Aruba passare al cloud è facile, rapido e conviene. Vai ora su cloud.it. Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Noi qualche giorno fa abbiamo fatto una vibrata presa di posizione nei confronti di quanto aveva detto l'esimio professor Umberto Eco sulla storma, anzi sulla legione di imbecilli che popolerebbe la rete. Oggi vorrei iniziare una serie di riflessioni più articolate proprio per dare una qualità e una quantità alle persone che si muovono in rete, soprattutto nel nostro paese, perché per quanto la rete abbracci il mondo, poi è fatta di tante piccole patrie. Nei social media siamo abituati a avere relazioni sempre più strette con persone che comunque fanno parte del nostro territorio o hanno comunque delle affinità con noi per interesse. Vorrei partire questa mattina con un'analisi di Twitter. Twitter è un sistema velocissimo di micromessaggeria, molto usato e molto riverberato sui media tradizionali. Le forme ultime di rappresentazione della politica sono molto basate su una sorta di spontanea maniera di prodursi e di manifestare il proprio pensiero di uomini politici attraverso Twitter. Primo tra tutti è l'attuale presidente del Consiglio, che di Twitter ha fatto un suo cavallo di battaglia. Diciamo che una nuova generazione di politica, senza entrare in merito a valutazioni sulla politica, usa molto Twitter. Lo usano anche molto i giornalisti. I giornalisti blasonati, titolati, non perdono nel corso della giornata, in attesa dei loro appuntamenti ufficiali, nelle pagine dei loro quotidiani che escono la mattina e nei loro programmi di maggior spicco, che sono molte volte in prima serata televisiva, di tenere caldo il loro pubblico, il pubblico dei loro fan, attraverso delle dotte, intelligenti, quanto a volte sciocche e banali, dichiarazioni su Twitter. Le dichiarazioni su Twitter vengono riprese da altri tweet, vengono poi tracimano nelle agenzie di stampa, diventano notizia, il giorno dopo vengono pubblicate sui giornali. Ecco, cosa c'è dietro tutto questo meccanismo? Un meccanismo proprio del nostro paese, proprio della nostra maniera di porsi nei confronti dei social media, in particolare di Twitter, o in realtà è questa l'essenza di questo tipo di mezzo di diffusione e condivisione del sapere? Qual è il vostro punto di vista? Usate Twitter? Quanto twittate? Osservate i tweet degli altri? Vi sentite lusingati di essere nella scia lunga di un grande twittatore illustre, averlo fra le persone che voi seguite? Inutilmente, in vano mettete dei commenti ai suoi tweet, ma nemmeno vi calcola, però siete contenti lo stesso. 800 24 00 24. Vincenzo Cosenza, buongiorno. Buongiorno Gianluca. Vincenzo Cosenza, che è responsabile blogmeter.it, che è un servizio di ascolto dei social media che ogni giorno valuta e misura la presenza delle aziende, dei brand, dei personaggi pubblici, dei politici su tutti i vari social media, appunto Facebook, Twitter e via dicendo. In particolare ha fatto un'analisi interessante, che vorrei parlare proprio sui dati e sulle certezze, sulle evidenze, su quello che sono state le conversazioni degli italiani su Twitter dal 2013 a oggi. Si chiama Twitter in Italia. La cosa, Vincenzo, che soprattutto mi ha immediatamente sorpreso, che gli italiani vanno su Twitter per commentare la televisione. È un dato che ti sorprende? Fa parte, secondo te, della nostra equazione individuale, locale e ambientale, o in generale Twitter è usato per commentare la televisione? Beh, un dato che non mi sorprende più di tanto, perché la stessa società Twitter punta proprio sulla televisione, sui divi della televisione, per portare persone ad iscriversi al servizio. È proprio il sistema di Twitter che spinge le persone a follow, seguire una celebrità, che è fatto in questo modo e che quindi, come dire, stimola quello che è lo star system, quindi riproduce, se vuoi, le logiche broadcasting tipiche dei media tradizionali. Quindi, diciamo, al di là di tutte le illusorie fantasie che ci facciamo sulla differenza rispetto ai media tradizionali, quello che ha fatto inorridire il professor Umberto Eco, che un premio Nobel ha la stessa dignità di un qualsiasi imbecille, in realtà su Twitter è un po' più mascherata la cosa. Ci sono dei personaggi illustri che giocano la loro fama non grazie ai social media, ma è antecedente alla fortuna dei social media, che prolungano la loro esistenza dentro Twitter e gli altri vanno dietro. Ad esempio, i programmi di Maria De Filippi Amici sono i luoghi in cui la gente sembra twittare di più, che è l'antitesi di una visione di cultura digitale, se vogliamo dirlo. Sì, esatto, guarda, il programma Amici nel 2014 è stato il programma più twittato, con oltre 1.300.000 tweet, seguito poi da altri programmi, quelli di MTV, MTV Awards, The Voice, Sanremo, quindi molto c'è questa commissione tra programmi televisivi e musica che si riscontra su Twitter, che stimola il dibattito. Ecco, quello che vorrei chiedere ai miei ascoltatori adesso: secondo voi, quello che stiamo definendo, stiamo raccontando con Vincenzo Cosenza, che è la traccia lunga di alcuni italiani, di un numero che lui adesso ci dirà più o meno a quanto corrisponde italiani, che ogni giorno con varie frequenze lasciano la loro traccia su Twitter, ma lasciano la traccia di qualcosa che loro vedono, che loro seguono, qualcosa da cui sono contaminati e poi lo riferiscono su Twitter. Non creano al momento nulla di, mi sembra di capire, di particolarmente originale, ma qualcosa che avviene nel mondo che viene poi tracciato su Twitter. Ecco, secondo te, Vincenzo, quanto il paese che hai osservato di twittatori in parte può rispondere al paese reale, a quello che noi leggiamo e tracciamo attraverso altri indicatori? Ma quello che si può dire è che sicuramente Twitter rimane ancora un network di nicchia, quindi non è possibile dire che il paese reale è su Twitter o corrisponde, può essere rappresentato da coloro che sono iscritti a Twitter. Dati certi non ne abbiamo, perché la piattaforma stessa non fornisce dei dati proprio locali sull'Italia, ma da quello che alcuni fornitori di servizi come AudiWeb dicevano un po' di mesi fa, siamo nell'intorno di 5-6 milioni di italiani, quindi una minoranza che non ha nulla a che fare con la massa delle persone che invece è su Facebook e che invece corrisponde un po' di più a quella dell'Italia, insomma è più rappresentativa dell'Italia. Ecco, questo come te lo spieghi? Allora, Facebook è un sistema che al momento permette una maggiore espressività, perché Facebook è quello in cui le foto appaiono in begli album, in cui il ripercorrere, rincorrersi del gioco del mi piace non mi piace, ti seguo non ti seguo, commento tu mi ricommenti, è più esteso, ha una maggiore duttilità. Twitter, devo dire che tra un mese aumenterà anche il numero delle battute possibili per i messaggi privati e personali, quindi io potrò mandare delle vere e proprie lettere, degli articoli, prima era limitato alcuni messaggi. Tenderanno a equivalersi i due social media, oppure ognuno manterrà il suo specifico, secondo te? Ma ognuno tenderà a mantenere il suo specifico, ma Twitter ha grosse difficoltà a coinvolgere appunto le masse di persone, proprio perché è meno interattivo, fornisce meno stimoli, come dicevi tu, rispetto a Facebook, e quindi opererà dei correttivi per essere considerato un po' più appealing dalle persone, dalle masse. Quindi tenderà, diciamo così, volendo semplificare, ad assomigliare a Facebook. C'è da vedere se appunto non sia un po' troppo tardi per questo tipo di mosse, anche perché ci sono molte nubi all'orizzonte. Proprio il management di Twitter ha subito ora una battuta d'arresto con le dimissioni di Dick Costolo, quindi sono senza il management in questo momento, in una situazione un po' critica, quindi bisognerà un po' vedere. Anche perché io direi che onestamente un utente medio italiano, come lo osservo io, è diviso fra Facebook, che è il luogo dell'espansione, della dimostrazione, sì, dell'affermazione di esistenza, e poi WhatsApp, altri sistemi più individuali, che se uno deve mandare messaggi, esatto, riesce a mandarli su sistemi personali, diciamo, esatto. L'esposizione di se stessi c'è già su Facebook, a tutti gli strumenti, e poi gli altri, i contatti personali individuali non se li gioca personalmente, non c'è bisogno di avere un altro luogo in cui tutti ci guardano e ci osservano. Sentiamo Claudio. Buongiorno Claudio. Buongiorno. Io volevo dare il mio parere di utente medio non famoso. Secondo me Twitter, per come è strutturato oggi, serve maggioritariamente a persone importanti che hanno visibilità, tipo, come diceva lei, appunto, giornalisti o politici. L'utente medio ne fa un... La sto un po' perdendo, mi sembra capito, l'utente medio, lei voglia dire, in fondo è uno strumento per avere un po' di luce riflessa, di stare nella grande compagnia, un po' come le cheerleader di un grande giornalista o di un grande opinionista o di un personaggio dello spettacolo. La sera, non so, Barbara D'Urso, come un'altra nota conduttrice, diceva da letto: buonanotte a tutti i miei amici, come state? Domani sarà una bella giornata in televisione, e tutti dietro dicono: bella, brava, mandano bacini e cuoricini. Io, Vincenzo, no, aspetta, mandiamo le informazioni del traffico, perché c'ho una domanda da farti su quella che è l'appendice che sembrava più strafighetta di Twitter, che io sto osservando con attenzione in questi giorni, che è appunto Periscope. Su questo sarà la mia domanda, ma fra un istante, dopo il traffico. Melog, cronache meridiane. .800240024, stiamo facendo un'analisi approfondita, prendendo in esame per oggi intanto Twitter, ma vorrei farlo sui vari social media per cercare di capire esattamente la qualità, l'attività, lo spessore e la distribuzione sul territorio nazionale dei cosiddetti imbecilli, almeno come l'ha classificati Umberto Eco. Ho sotto mano i dati elaborati da Vincenzo Cosenza, responsabile blogmeter.it, che è un'analisi sulle conversazioni degli italiani su Twitter dal 2013 a oggi. Per darvi un'idea della profondità del lavoro che ha fatto Cosenza, hanno raccolto, categorizzato qualcosa come 250 milioni di tweet nel 2014, 214 milioni nel 2013, il 2015 ancora non è terminato, hanno fatto i primi 4 mesi, 92 milioni, quindi è una bella base dati su cui si è lavorato. Volevo velocemente, prima di farti la domanda che ho già annunciato, capire com'è messa la politica, perché molti ascoltatori mi stanno domandando quello che è, diciamo, la presenza dei politici su Twitter. Molti si muovono in maniera molto sconclusionata, ma della maniera abbastanza grottesca di usare Twitter, fanno il loro punto di valore, poi le loro gaffe escono sui giornali e comunque si parla di loro. Sono tecniche, strategie, o ognuno si rappresenta per quello che è anche in questa modalità, Vincenzo? Ma innanzitutto direi che la prima cosa da dire è che gli italiani comunque parlano tanto di politica su Twitter, no? Il 19% delle conversazioni realizzate riguarda la politica. Dopo la TV e la politica, diciamo, dopo la TV? Esatto, dopo la TV che è al 33%, la politica al 19%, quindi tanto direi. Lo fanno anche perché appunto trovano dei politici in rete che magari dicono strafalcioni o comunque fanno delle dichiarazioni che meritano in qualche modo di essere riprese e commentate. La qualità dell'azione politica su Twitter chiaramente è molto varia. Come dicevi tu, c'è sicuramente chi usa Twitter come strategia mediatica per far rimbalzare sulle agenzie delle dichiarazioni che altrimenti probabilmente non avrebbero alcun senso, diciamo, di esistere. In altri casi le agenzie di stampa e gli uffici stampa sono messe le mani nei capelli negli ultimi anni, non ha più senso, diciamo, un'agenzia di stampa che sta lì a aspettare fuori dalla porta quando c'è qualcosa, esatto, di importante, perché da dentro già mandano il tweet, quindi è già fatto. Esatto. Quindi ad arte, come dire, alcuni politici creano questa strategia anche di battibeccare con altri politici su Twitter per poi farsi riprendere. C'è chiaramente chi lo usa come un podio per fare i propri comizi, di fatto. Pochi lo usano in maniera conversazionale, come andrebbe davvero utilizzato. In questo devo dire che proprio il Presidente del Consiglio ogni tanto trova dei momenti per poter rispondere a qualcuno che appunto gli fa delle obiezioni. Ecco, quant'è la percentuale di reale risposta rispetto? Perché l'idea che c'è un podio dove ci sta una persona, sia esso politico, giornalista, uomo di spettacolo, uomo di cultura, uomo noto, che si esprime e centellina le sue massime saggezze sotto un vocio di persone, dicono bravo, oppure oppure fa schifo, o di mestiere lo trolleggiano perché ci sta anche tanta gente, sta lì sì. apposta, non aspetta altro, ma li vedi, sono quelli che poi a loro volta sono seguiti da 3 persone, che però hanno una grande sì. attività, fanno 100.000 tweet, ma hanno 3 persone che li seguono, perché la loro attività è andare lì a fare disturbatori. Assolutamente, no, la percentuale di chi davvero risponde, di quante risposte vengono date è davvero risibile, insomma siamo veramente nell'intorno dell'1%, ecco, quindi diciamo che la televisione ha anche imparato, la televisione italiana, a giocare su questo. Il programma di Zoro Gazebo ha delle rubriche che sono un po' più mirate ad analizzare i percorsi dei tweet. Ricordo nell'ultima ce n'era una molto divertente di Paolo Mieli, che ha fatto soltanto un tweet in tutta la sua è seguito da miliardi di persone, ma soltanto un tweet è entrato, e Anna Masera gli domanda: ma sei Paolo Mieli? Sì, sono io, fine, non ha più twittato mai, eppure sì, sono milioni di persone che lo seguono. Esatto, e lì è la televisione che trolla, se vogliamo, chi trolla su Twitter, ecco. Sentiamo Filippo, buongiorno. Filippo. Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno. Nicoletti, buongiorno. Eccomi. Io ho 23 anni e ho visto come i social network hanno permesso di avvicinare la politica alle persone. E riprendendo il discorso che faceva prima della qualità del social network, io vorrei focalizzare la situazione tra, ad esempio, Salvini, che ad sì. esempio lui segue moltissimo Facebook con la storia della ruspa di qua, ruspa di là, sembra un sì, è più ruspante il pubblico su Facebook, è un po' più ruspante in effetti. Esattamente. E però una cosa che ho notato che mi ha fatto moltissimo piacere dalla mia giovane età è che hanno avvicinato la politica ai giovani, e questo è un potentissimo strumento per farli apprezzare. Poi ovviamente ci sono opinioni diverse. La cosa che manca è che si crei un dibattito costruttivo fra il politico e chi lo segue. Ecco, lei vorrebbe da appassionato che non fosse soltanto mettere un post su Facebook, una foto, o fare. Salvini un paio di settimane fa fece la polemica: mi hanno cacciato da Facebook solo perché non avevo detto nulla. Poi in realtà se uno andava a vedere c'erano dei commenti ai suoi post che erano di spessore inaccettabile, quindi per questo era stato segnalato da alcuni altri navigatori. Lei però vorrebbe qualcosa di più reale, più concreto, più diretto, una vera e propria agorà in cui il politico non è che soltanto tira l'esca per far abboccare i pesciolini, ma poi certo. si mette in gioco. E il mettersi in gioco non è mai una cosa molto facile. Vincenzo Cosenza, quanti si mettono veramente in gioco? No, pochi si mettono in gioco. Anche perché molti, diciamo la verità, hanno dei ghostwriter che scrivono per il loro profilo. Sì, non hanno tempo né voglia, anche se le piattaforme lo permetterebbero, a partire da Facebook, che comunque permette una discussione, permette di seguirla anche in maniera agevole, a differenza di Twitter, dove un po' la discussione si perde anche per una questione di limiti dei 140 caratteri. Senti, l'ho fatta l'ultima domanda, sennò sì. chiudiamo. Periscope è questa applicazione che permette alle persone fare dei video streaming anche in diretta del loro tempo. Ho seguito i Periscope di alcuni VIP, molti inquadrano la loro scrivania, il loro tavolino, la loro penna e scrivono su un foglietto: salute, tutti, che bello, che bravo. È un altro gadget per l'autocelebrazione dell'intoccabilità e intangibilità, o avrà degli sviluppi? Finora non mi ha dato grandi sorprese o grandi fremiti di novità, sinceramente. No, l'obiettivo è quello di essere il Twitter della televisione, di farsi una propria televisione personale, quindi di, come dire, replicare Twitter in TV. Quindi vedremo molti VIP che lo useranno e poche persone comuni che lo faranno. Ecco. Sì, perché di vedere le persone comuni non interessa a nessuno, ma di vedere anche sì. soltanto la scrivania di un grande personaggio sembrerà già... Bisognerà inventare dei format particolari per quello. Beh, oddio, c'è chi ci sta pensando, perché so che comincia un valido e potente servizio di porno attraverso Periscope, quindi qualcuno lo sta monetizzando. Grazie Cosenza, alla prossima. Dal prossimo 14 luglio finirà il supporto per Windows Server 2003. Sei pronto ad aggiornare la tua infrastruttura IT? Passa ora al cloud con Aruba. Vai su cloud.it e prova gratis i nostri servizi con la tecnologia Microsoft Hyper-V. Con Aruba passare al cloud è facile, rapido e conviene. Vai ora su cloud.it.